su di te. Severo come non è stato mai, e se n'è andata non è qui con te. Ti è messo al traffico, ora te ne vai. Torna la polvere nel naso tuo, sempre più forte il cuore batterà, e con il sangue gli occhi fuggi via, in cerca del riscatto ti aiuterà. Con questi tieni della rabbia tua, quando la notte ti sorprenderà, non troverai più quelle mani sue, spine di rosa sulla tua schiena. Ma vecchie strade di periferia, l'odore dei quartieri operai, fuoco bruciare ancora dentro te, questa fierezza non ti lascia mai. Hey, hey, aspetterai con assaggio notte, riparlerete ancora per l'ultima volta dei vostri guai. Hey, hey, un'altra notte senza nome è piena di perché, che affronterai senza badare alla tua sorte, non cambi mai. Rimane della tua realtà, dopo la pioggia di periferia, delle speranze tue di libertà, leggere rondini volate via, mentre ti vuole una vita che non assomiglia a quella che tu fai, ritornerà la pioggia su di te, perché stavolta non ti piegherai. Hey, hey, aspetterai con la sedia a nocche, riparlerete ancora per l'ultima volta dei vostri guai. Hey, hey, un'altra notte senza nome è piena di perché, che affronterai senza badare alla tua sorte, non cambi mai, non cambi mai, non cambi, non cambi, non cambi mai, non cambi, non cambi mai.